Benvenuti. Cortocircuito in onda su Radio ZM. Circuit Gang nel posto, come sempre. Eccovi ritornati a Cortocircuito, l'appuntamento con la musica elettronica su Radio ZAM. Sono Sushi Circuit Gang e oggi vi presento un bellissimo live set di Wiesel, a.k.a. Psychopathic, no scusate, Schizophrenic, di Rizona Randagi Project. Se avete una piccola sensazione di déjà vu è perché sono un sottone. La scorsa settimana mi sono dimenticato di registrare la puntata per il podcast per tutti gli ascoltatori che non possono ascoltare adesso la puntata. Siccome era un bel live set e dopo mi ha mandato anche un altro splendido live set di Roby Wanker Roby che ha registrato qua a ZAM durante una bellissima serata fatta con la crew Revolver. Spero che qualcuno che c'era se la ricordi. Ho deciso di rimandare gli stessi live set che purtroppo non ho registrato la scorsa settimana, così che tutti gli altri possano anche ascoltare sul podcast che trovate su Archive sotto Radio ZM. Trovate tutte le stupende, bellissime puntate di tutte le programmazioni di ZAM. Siete scaldati un pochino? Ecco, a voi un bellissimo live set di Wiesel che è Schizophrenic. Godetevelo, ragazzi. Godetevelo tutti i fan dell'acid. Yeah. Radio ZM. State ascoltando Cortocircuito. We'll be right back. Un saluto a Gulli che ci segue sempre.

State ascoltando Cortocircuito, Radio ZM. Questo è Live Set Divisa. Grande Wiesel, grazie per il suo live set. Che dire di Wiesel, a.k.a. Schizophrenic? Beh, Wiesel comincia a suonare 4 anni fa, dapprima con Insane Sound System in Puglia e poi con Zona Randagi. Questo è l'ultimo, questo è l'estratto dell'ultimo live set del 2020. Lui fa parte di Zona Randagi Project da un paio di anni, è da sempre appassionato, della musica acid, ha iniziato a suonare questo genere. E lo salutiamo e ringraziamo e soprattutto incitiamo tutti voi producer che avete un live set da far ascoltare o un bel mix che avete registrato, a mandarcelo e lo passeremo molto volentieri così da condividere la vostra musica con tutti. Ringrazio a questo punto anche i miei soci, già che ci sono Robby Wankerobby e Circuit Gang, Robby Wankerobby e Sbume di Circuit Gang. Presto li troverete qua insieme a me, finalmente direi, anche perché io non sono portato per fare lo speaker. Quindi abbiamo Roby che vi intratterrà con la sua voce, le sue skills oratorie sicuramente più raffinate delle mie. E avremo anche Sbume che farà le scorregge fondamentalmente. Vi mandiamo subito con la musica un bellissimo set di Roby Wankerobby. Thank you. questa bombastica. Está bom. We'll be right back. lova lova. Questa lova lova.

state ascoltando Cortocircuito. Ma stupido, quello che ti apre il cervello! Se non mi hai provato le... Cosa vuoi? Alla mattina presto! Thank you. $1 million. Festa, no, Bruce? Festa. È vero, vero, vero, vero, vero, vero. Non prende. Thank you. I'm not sure. cazzo. Underground, baby. L'underground. Va in onda su Radio ZAM. Si chiama cortocircuito. Thank you. grandioso set di Roby. Sempre bello ascoltare Roby, speriamo di ascoltarlo live prossimamente. Ti aspettiamo, Roby. Cioè, ti aspetto. Aspetto anche Sbume, fatevi vedere, ragazzi. E agli ascoltatori dico, vi lascio per questa sera. Arrivederci alla prossima puntata di Cortocircuito. Bella lì a tutti.